Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Traduzione di Enrico Cicogna. Ursula tornò a scambiare Aureliano con suo figlio, perché il vento caldo che seguì il diluvio e infuse nel suo cervello raffiche occasionali di lucidità aveva smesso di soffiare. Quando entrava nella stanza, trovava lì Petronilla e Guaran, col voluminoso guardinfante e il giubbetto di lustrini che si metteva per le visite d'obbligo, e trovava tranquillina Maria miniata alla coque Wendia, sua nonna, che si faceva vento con una piuma di pavone sulla sua sedia a dondolo di paralitica, e suo bisnonno, Aureliano Arcadio Wendia, col suo falso dolman delle guardie vicereali, e Aureliano Iguaran, suo padre, che aveva inventato un'orazione per inaridire e far cadere i vermi dalle vacche, e quella timorata di sua madre, e il cugino con la coda di maiale, e José Arcadio Wendia, e i suoi figli morti, tutti seduti su sedie che erano state accostate alla parete, come se partecipassero non a una visita, ma a una veglia funebre. Lei imbastiva una conversazione vivace, commentando fatti di luoghi lontani e di tempi senza coincidenza, di modo che quando Amaranta Ursula tornava dalla scuola e Aureliano si stancava dell'enciclopedia, la trovavano seduta sul letto, intenta a parlare da sola e sperduta in un labirinto di morti. «Fuoco!» gridò una volta terrorizzata, e per un attimo seminò il panico nella casa. Ma quello che stava prevenendo era l'incendio di una scuderia al quale aveva assistito all'età di 4 anni. Giunse a mescolare in modo tale il passato col presente che nelle 2 o 3 ventate di lucidità che ebbe prima di morire, nessuno seppe con sicurezza se parlava di quello che sentiva o di quello che ricordava. A poco si andò rattrappendo, fetizzando, mummificando da viva, fino al punto che nei suoi ultimi mesi era una prugnetta secca sperduta dentro il camicione e il braccio, sempre levato, finì per sembrare la zampa di una scimmia. Rimaneva immobile per parecchi giorni e Santa Sofia della Pietà doveva scuoterla per convincersi che fosse viva e se la metteva in grembo per alimentarla con cucchiainate di acqua e zucchero. Sembrava una vecchia appena nata. Amaranta Ursula e Aureliano la portavano avanti e indietro nella stanza, la posavano sull'altare per constatare che era appena più grande del bambino Gesù e un pomeriggio la nascosero in un armadio del granaio dove avrebbero potuto mangiarsela i topi. Una domenica delle palme entrarono nella stanza mentre Fernanda era a messa, sollevarono Ursula per la nuca e per i calcagni. «Povera trisnonnina», disse Amaranta Ursula, «ci è morta di vecchiaia». Ursula si spaventò. «Sono viva», disse. «Vedi», disse Amaranta Ursula reprimendo il riso, «non respira nemmeno». «Sto parlando», gridò Ursula. «Non parla nemmeno», disse Aureliano. «È morta come un grillino». Allora Ursula si arrese all'evidenza. «Dio mio», esclamò a voce bassa. «E così la morte è dunque questa». Iniziò un'orazione interminabile, sconnessa, profonda, che si prolungò per più di 2 giorni. E che il martedì era degenerata in una farragine di suppliche a Dio e di consigli pratici per far sì che le formiche rosse non abbattessero la casa, perché non lasciassero mai spegnere la lampada davanti al daguerrotipo di Remedios e affinché badassero che nessun Buendia finisse per sposarsi con qualcuno del suo stesso sangue perché nascevano figli con la coda di maiale. Aureliano II cercò di approfittare del delirio per farle confessare dov'era l'oro seppellito, ma ancora una volta le sue suppliche furono inutili. «Quando verrà il padrone», disse Ursula, «Dio lo illuminerà perché possa trovarlo». Santa Sofia della Pietà ebbe la certezza che l'avrebbe trovata morta da un momento all'altro, perché constatava in quei giorni un certo turbamento della natura. Le rose odoravano di chenopodio, era caduta una zucca di ceci e le piccole sfere erano rimaste per terra in un ordine geometrico perfetto e in forma di stella di mare. e una notte aveva visto passare nel cielo una fila di luminosi dischi aranciati. La trovarono morta il mattino del Giovedì Santo. L'ultima volta che l'avevano aiutata a calcolare la sua età, ai tempi della compagnia bananiera, era risultato che doveva avere tra i 115 e i 122 anni. La seppellirono in una cassettina che era poco più grande del cestino in cui avevano portato Aureliano. E pochissima gente assistette ai funerali, in parte perché non erano molti coloro che si ricordavano di lei, e in parte perché in quel giorno ci fu un caldo tale che gli uccelli disorientati si schiacciavano come goccioloni contro i muri, sfondavano le reti metalliche delle finestre e venivano a morire nelle stanze. Sulle prime si pensò alla peste. Le donne di casa erano sfinite dal tanto scopare uccelli morti, soprattutto nell'ora della siesta, e gli uomini li buttavano nel fiume a carrettate. La domenica di resurrezione, il centenario padre Antonio Isabel affermò dal pulpito che la morte degli uccelli era la conseguenza del cattivo influsso dell'ebreo errante, visto da lui stesso la sera prima. Lo descrisse come un ibrido di maschio caprino incrociato con femmina eretica, una bestia infernale il cui alito calcinava l'aria e la cui vista avrebbe causato alle spose novelle il concepimento di mostri. Non furono molti coloro che badarono alla sua predica apocalittica, perché il villaggio era convinto che il parroco farneticava a causa dell'età. Ma una donna svegliò tutti allo spuntare del giorno di mercoledì perché aveva trovato delle orme di bipede con l'unghia fessa. Erano così sicure e inconfondibili che chi andò a vederle non mise in dubbio l'esistenza di una creatura spaventosa simile a quella descritta dal parroco e si unirono per preparare trappole nei loro cortili. Fu così che riuscirono a catturarlo. Due settimane dopo la morte di Ursula, Petra Cotes e Aureliano II furono svegliati di soprassalto da un mostruoso pianto di vitello che giungeva dal vicinato. Quando si alzarono, un gruppo di uomini stava già sfilando il mostro dalle picche puntute che erano state preparate nel fondo di un fosso coperto di foglie secche e aveva smesso di muggire. Pesava come un bue nonostante la sua statura non fosse maggiore di quella di un adolescente e dalle sue ferite sgorgava un sangue verde e untuoso. Aveva il corpo ricoperto di un pelame ruvido, fitto di zecche minute e la pelle pietrificata da una crosta di remora. Ma al contrario della descrizione del parroco, le sue parti umane erano più di angelo infermiccio che di uomo, perché le mani erano lisce e agili, gli occhi grandi e crepuscolari, e aveva sulle scapole i monconi cicatrizzati e callosi di ali potenti che dovevano essere state troncate con asce da contadino. Lo appesero per le caviglie a un mandorlo della piazza affinché tutti potessero vederlo e quando cominciò a imputridire lo incenerirono in un falò perché non si poté determinare se la sua natura bastarda fosse di animale da gettare nel fiume o di cristiano da seppellire. Non si stabilì mai se in realtà era stato per causa sua che erano morti gli uccelli, ma le spose novelle non concepirono i mostri preannunciati e non diminuì l'intensità del caldo. Rebecca morì alla fine di quell'anno. Argenida, che l'era stata serva tutta la vita, chiese aiuto alle autorità per abbattere la porta della stanza dove la sua padrona era chiusa da 3 giorni e la trovarono nel letto solitario acciambellata come un gambero, con la testa pelata dalla tigna e il pollice ficcato in bocca. Aureliano II si prese cura dei funerali e cercò di restaurare la casa per venderla, ma la distruzione si era così accanita su di essa che le pareti si sgretolavano non appena si finiva di imbiancarle e non ci fu malta abbastanza grossa da impedire che la zizzania sbriciolasse i pavimenti e l'edera imputridisse i puntelli. Tutto procedeva così fin da dopo il diluvio. L'accidia della gente contrastava con la voracità della dimenticanza che a poco andava cariando spietatamente i ricordi fino al colmo che in quei tempi, in occasione di un nuovo anniversario del Trattato di Neerlandia, arrivarono a Macondo degli emissari del Presidente della Repubblica per consegnare finalmente la decorazione varie volte rifiutata dal colonnello Aureliano Buendia e persero tutto un pomeriggio a cercare qualcuno che potesse indicar loro dove potevano trovare qualche discendente. Aureliano II fu tentato di accettarla, credendo che la medaglia fosse d'oro massiccio, ma Petra Cotes riuscì a persuaderlo della indegnità quando già gli emissari stavano preparando bandi e discorsi per la cerimonia. In quell'epoca ricomparvero anche gli Zingari, gli ultimi eredi della scienza di Melchiades, e trovarono il villaggio così a terra e i suoi abitanti così appartati dal resto del mondo che ripresero a infilarsi nelle case esibendo ferri calamitati come se realmente fossero l'ultima scoperta dei savi babilonesi e tornarono a concentrare i raggi solari con la lente gigantesca e non mancò chi rimanesse a bocca aperta vedendo cadere casseruole e rotolare caldaie e chi pagò 50 centavos per sbalordirsi davanti a una zingara che si toglieva e si metteva la dentiera posticcia. Uno sgangherato treno giallo, con cui non arrivava né partiva mai nessuno, e che si fermava appena nella stazione deserta, era l'unica cosa che rimaneva del treno affollato al quale il signor Brown agganciava il suo vagone col tetto di vetro e le poltrone da vescovo, e dei treni della frutta di 120 vagoni che per passare ci mettevano tutto un pomeriggio. I delegati della curia, venuti a indagare in seguito al rapporto sulla strana moria degli uccelli e sul sacrificio dell'ebreo errante, trovarono padre Antonio Isabel che giocava coi bambini a mosca cieca e credendo che il suo rapporto fosse causato da un'allucinazione senile se lo portarono in un ospizio. Poco dopo mandarono padre Augusto Angel, un crociato delle nuove leve, intransigente, audace, temerario, che suonava personalmente le campane parecchie volte al giorno affinché lo spirito non illanguidisse. E passava di casa in casa a svegliare i dormiglioni perché andassero a messa, ma che prima di un anno era stato vinto anche lui dalla svogliataggine che si respirava nell'aria, dalla polvere bruciante che invecchiava e bloccava ogni cosa e dal sopore che gli provocavano le polpette del pranzo nel calore insopportabile della siesta. Alla morte di Ursula, la casa ricadde nell'abbandono dal quale non l'avrebbe potuta riscattare nemmeno una volontà tanto risoluta e vigorosa quanto quella di Amaranta Ursula, che molti anni dopo, quando ormai si era fatta donna senza pregiudizi, allegra e moderna, coi piedi ben posati sul mondo, aprì porte e finestre per scacciare la rovina, restaurò il giardino, sterminò le formiche rosse che ormai vagavano in pieno giorno per il corridoio e cercò inutilmente di risvegliare il dimenticato spirito di ospitalità. La passione claustrale di Fernanda oppose una diga insormontabile ai 100 anni torrenziali di Ursula. Non soltanto si rifiutò di aprire le porte quando terminò il vento arido, ma fece chiudere le finestre con crociere di legno, ubbidendo alla consegna paterna di seppellirsi da viva. La dispendiosa corrispondenza coi medici invisibili finì in un fallimento. Dopo numerosi rinvii, si chiuse nella sua stanza nella data e nell'ora fissate, coperta soltanto con un lenzuolo bianco e con la testa rivolta a nord, e alla 1 della mattina sentì che le mettevano sulla faccia un fazzoletto imbevuto in un liquido glaciale. Quando si svegliò, il sole brillava alla finestra e lei aveva una cucitura tremenda in forma di arco che cominciava vicino all'inguine e finiva sullo sterno. Ma prima che si sottoponesse al riposo prescritto, ricevette una lettera sconcertata dai medici invisibili, i quali dicevano di averla frugata per 6 ore senza trovare nulla che corrispondesse ai sintomi tante volte e così scrupolosamente descritti da lei. In realtà, La sua perniciosa abitudine di non chiamare le cose col loro nome aveva originato una nuova confusione, poiché l'unica cosa che trovarono i chirurghi telepatici fu un abbassamento dell'utero che poteva correggersi con l'uso di un pessario. La disillusa Fernanda cercò di ottenere una informazione più precisa, ma i corrispondenti ignoti non risposero mai più alle sue lettere. Si sentì così oppressa dal peso di una parola che non conosceva che decise di mettere il bavaglio alla vergogna per chiedere cosa fosse un pessario. E soltanto allora seppe che il medico francese si era appeso a una trave 3 mesi prima ed era stato seppellito contro la volontà del villaggio da un antico compagno d'armi del colonnello Aureliano Buendía. Allora si confidò con suo figlio José Arcadio e questi le mandò i pessari da Roma con un foglietto di spiegazioni che lei gettò nel gabinetto dopo averle imparate a memoria, in modo che nessuno avesse a conoscere la natura delle sue afflizioni. Era una precauzione inutile perché le uniche persone che vivevano nella casa le badavano appena. Santa Sofia della Pietà vagava in una vecchiaia solitaria, cucinando quel poco che mangiavano e quasi completamente dedicata alla cura di José Arcadio II. Amaranta Ursula, erede di certe grazie di Remedios la Bella, occupava nei compiti di scuola il tempo che prima perdeva a tormentare Ursula e cominciava a dimostrare una buona dose di senno e una passione per gli studi che fecero rinascere in Aureliano II le speranze che gli aveva ispirato Meme. Le aveva promesso di mandarla a finire i suoi studi a Bruxelles in conformità a un uso che si era stabilito nei tempi della compagnia bananiera e quella illusione lo aveva indotto a cercare di far rivivere le terre devastate dal diluvio. Le rare volte che lo si vedeva in casa era per Amaranta Ursula, poiché col tempo si era trasformato in un estraneo per Fernanda e il piccolo Aureliano si andava facendo ritroso e assorto a mano che si avvicinava alla pubertà. Aureliano II sperava che la vecchiaia addolcisse il cuore di Fernanda, di modo che il ragazzo potesse integrarsi alla vita di un villaggio dove nessuno si sarebbe certamente preso il disturbo di fare speculazioni tendenziose sulla sua origine. Ma lo stesso Aureliano sembrava preferire la clausura e la solitudine e non dimostrava la benché minima malizia per conoscere il mondo che cominciava oltre la porta di strada. Quando Ursula fece aprire la stanza di Melchiades, lui cominciò prima a percorrerla in lungo e in largo, poi a curiosare dalla porta socchiusa e nessuno seppe in che momento finì per legarsi a José Arcadio II di un affetto ricambiato. Aureliano II scoprì questa amicizia parecchio tempo dopo che era iniziata, quando sentì il bambino che parlava della carneficina della stazione. Successe un giorno in cui qualcuno si lamentò a tavola della rovina nella quale era sprofondato il villaggio quando la compagnia bananiera lo aveva abbandonato. E Aureliano lo contraddisse con una maturità e una competenza da persona adulta. Il suo punto di vista, contrario all'interpretazione generale, era che Macondo era stato un luogo prospero e ben avviato finché non lo aveva sconvolto e corrotto e spremuto la compagnia bananiera, i cui ingegneri avevano provocato il diluvio come pretesto per eludere gli impegni coi lavoratori. Parlando così assennatamente che a Fernanda parve una parodia sacrilega della disputa di Gesù con i dottori, il ragazzo descrisse con particolari precisi e convincenti l'azione dell'esercito che aveva mitragliato più di 3.000 lavoratori intrappolati nella stazione e come i cadaveri erano stati caricati su un treno di 200 vagoni e poi gettati in mare. Convinta come la maggior parte della gente della verità ufficiale che non era successo nulla, Fernanda si scandalizzò all'idea che il ragazzo avesse ereditato gli istinti anarchici del colonnello Aureliano Buendía e gli ordinò di tacere. Aureliano II, invece, riconobbe la versione del suo fratello gemello.